Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti, sono le 17.07, buonasera da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Focus Economia. Davvero una settimana incredibile quella che si sta manifestando sui mercati finanziari internazionali, perché come dicevamo anche nel corso del giornale radio, l'anno sembrava essersi aperto decisamente sotto i migliori auspici, con due giornate di rialzo molto incoraggianti, e invece oggi sono arrivate altre notizie che hanno di nuovo depresso l'umore degli investitori. Gli indici sono tornati tutti giù, già un concentrato di vendite si sta verificando da due giorni a Piazza Affari, concentrato che colpisce soprattutto il comparto bancario. Tutta la colpa viene attribuita, quantomeno larga parte della colpa, ad Unicredit, perché il mercato ha ritenuto molto penalizzanti le condizioni dell'aumento di capitale che partirà lunedì scorso. Ieri già il titolo ha perso il 15%. Questa giornata si avvia ad essere chiusa con un altro ribasso di quasi 17 punti percentuali, ma non va meglio per gli altri competitors sul listino. Banco Popolare meno 10 punti e mezzo, Popolare di Milano meno 10, meno 8 per UbiBanca, per Monte dei Paschi meno 7, per Intesa San Paolo Mediobanca. Per gettare benzina sul fuoco, anche se in questi giorni faremo anche a meno di parlare di benzina perché quella pure continua a correre, come prezzi la crisi ungherese, quella crisi dei paesi dell'est della quale non si parlava da un bel po' di tempo, quantomeno che non riusciva a riguadagnarsi le pagine delle cronache dei giornali finanziari, oggi ritorna a fare capolino. Un anno fa siamo ritornati in borsa con la crisi e la primavera araba, adesso invece ritorniamo a parlare di Est Europa. L'Ungheria potrebbe essere a rischio crack, tutta colpa di una legge che è stata approvata la scorsa settimana dal Parlamento nazionale, che minaccerebbe l'indipendenza della banca centrale. Perché questa notizia oggi ha provocato una pioggia di vendite sul fiorino, che è finito ai minimi sull'euro? Perché ha provocato il volo dei rendimenti dei titoli di Stato? Peraltro oggi c'è stata anche un'asta di titoli ungheresi che è risultata essere un vero e proprio flop. Poi vi racconteremo appunto tutto questo e soprattutto il motivo per cui l'Ungheria sta avendo un vero e proprio scontro con l'Unione Europea, nei confronti della quale però avrebbe bisogno di aiuti finanziari. Poi ne parleremo. Chiaramente parleremo a lungo di questa giornata di borsa, di queste giornate sui mercati finanziari. Come altro tema di approfondimento abbiamo scelto di parlare più tardi del mercato del lavoro italiano. Nei giorni in cui si sta discutendo della riforma del mercato del lavoro, è il primo punto nell'agenda del ministro del welfare Elsa Fornero. Oggi l'Istat comunica che il dato sulla disoccupazione segnato a novembre è molto alto, ma soprattutto è drammaticamente alto il dato della disoccupazione giovanile, di quella popolazione, di quella fascia collocata fra i 15 e i 24 anni di età. A novembre il tasso appunto di disoccupazione di questa fascia d'età è arrivato al 30,1%, il tasso più alto dal gennaio del 2004, e soprattutto c'è una condizione drammatica per le donne in termini generali, ma anche in questa fascia, soprattutto per quello che riguarda il Sud Italia. Approfondiremo poi la dinamica che si è manifestata negli ultimi mesi dell'anno appunto nel nostro paese da questo punto di vista, e cercheremo anche di capire se ci sono delle prospettive, se la riforma del mercato del lavoro potrà bastare a compensare, anche, passatemi il termine, un po' i danni che sta facendo, nel senso che non favorisce chiaramente l'ingresso sul mercato del lavoro la riforma delle pensioni, perché procrastinando l'uscita dal mercato del lavoro sempre più in avanti appunto per una determinata fetta di popolazione, è chiaro che non si favorisce l'ingresso sul mercato del lavoro dei giovani, ma anche quella delle pensioni era un'iniziativa che andava assolutamente fatta, per cui si cerca di capire quali soluzioni potranno essere adottate per appunto far conciliare un po' tutte queste problematiche. E allora questi sono un po' i temi di oggi. 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Adesso andiamo alle altre notizie in breve. Partiamo come sempre con uno sguardo al mercato delle commodities, delle materie prime. Come sta andando oggi sul fronte oro, come sta andando oggi sul fronte petrolio? L'oro è a 1604 dollari l'oncia, il petrolio a New York è a 102,8 dollari al barile. E naturalmente anche oggi non è che ci siamo fatti mancare la raffica di rincari sul prezzo della benzina, che nella media nazionale è salita sopra a 1,74 euro al litro. Al centro Italia, dove più alte sono le addizionali regionali che hanno colpito in questi giorni appunto i carburanti, si è arrivati a sfondare quota 1,80 euro, toccando 1,80 euro e 20 al litro. Allora, in questo marasma ancora sul debito sovrano europeo, il mercato non riesce neanche a guardare i dati economici positivi che stanno pian piano arrivando dagli Stati Uniti. E mentre oggi commenteremo il dato sulla disoccupazione italiana, che è molto alto, in realtà rilevazioni contrastanti e migliori arrivano dagli Stati Uniti, perché abbiamo avuto intanto il dato sui sussidi di disoccupazione, che nell'ultima settimana sono scesi di 15.000 unità ed è stato interpretato come un dato migliore delle stime. E poi, in vista della pubblicazione di domani della statistica ufficiale sull'andamento del mercato del lavoro americano, c'è oggi stata la consueta anticipazione dell'agenzia ADP, che ha fatto sapere che il settore privato statunitense in dicembre avrebbe creato 325.000 nuovi posti di lavoro, un dato superiore alle attese degli analisti, che puntavano sulla creazione di 178.000 posti di lavoro, quindi il dato è maggiore anche di molto. Sempre oggi il sondaggio Challenger Gray & Christmas ha evidenziato che a dicembre i licenziamenti programmati dalle aziende americane sono balzati al 30,6% rispetto a dicembre 2010, quindi licenziamenti continuano, però i lavoratori americani si ricollocano anche altrettanto facilmente, appunto segnale di quella che è la forte flessibilità del mercato del lavoro americano, che funziona molto bene. Eastman Kodak, lo conoscerete tutti, questo marchio è il gigante americano della fotografia, starebbe preparandosi, se ne parla da un bel po', a chiedere la protezione dai creditori attraverso il Chapter 11 a causa di una situazione finanziaria sempre più difficile. Lo scrive il Financial Times, secondo cui è iniziato il negoziato con le banche su una nuova linea di credito che Kodak potrebbe utilizzare per ristrutturarsi. Le banche britanniche daranno una stretta ai prestiti a imprese e famiglie a causa delle condizioni di finanziamento più costose sui mercati. Beh, allora a quanto pare però in Gran Bretagna lo annunciano con anticipo, mentre in Italia funziona un po' diversamente, che le banche dicono che continuano ad elargire prestiti a imprese e famiglie, invece nella pratica poi non lo fanno. Comunque questa notizia è stata data dalla Banca d'Inghilterra in uno studio sulle condizioni creditizie, secondo cui gli sviluppi nell'area euro e il loro impatto sulle condizioni di finanziamento saranno un fattore chiave per la disponibilità di credito nel prossimo semestre. Parlavamo della crisi ungherese, l'approfondiremo tra un po'. L'Ungheria oggi non è riuscita a vendere l'intero ammontare di titoli di Stato in programma nell'asta di questa mattina. Si è fermata a 35 miliardi di fiorini contro i 45 programmati. I tassi sui titoli annuali sono volati, raggiungendo il 9,96% contro il 7,91% dello scorso 22 dicembre. Oggi anche la Francia aveva un importantissimo appuntamento con il mercato, doveva collocare titoli di Stato per un ammontare di quasi 8 miliardi di euro. L'asta è andata bene, c'è stata una domanda addirittura per 15 miliardi, i tassi sono stati in lieve rialzo, ma appunto il mercato ha applaudito a questa domanda quasi doppia rispetto a quanto offerto. La situazione dell'Eurozona e lo sviluppo economico dell'Europa saranno i temi al centro dell'incontro della cancelliera tedesca Angela Merkel, del premier italiano Mario Monti, in agenda mercoledì 11 gennaio a Berlino. L'Italia propone emendamenti alla bozza del trattato Salva Euro che tengano conto degli investimenti pubblici fuori dal conteggio, del deficit e che considerino l'influenza del ciclo economico nella valutazione del ritmo di riduzione del debito eccedente il 60% del PIL. Suscitato anche un po' di sorpresa il fatto che oggi Mario Monti sia volato a sorpresa appunto a Bruxelles, ci sono contatti con l'Unione Europea, poi però si è appreso nel pomeriggio che sono stati smentiti tutta quella serie di incontri che sarebbero stati addirittura oggi programmati con i vertici europei, non ci sono appunto stati né ci saranno, lo ha fatto sapere un portavoce della Commissione Europea, non ci saranno incontri né con Barroso né con il commissario economico agli affari economici e monetari Olli Rehn. Vi anticipo il dato sulla disoccupazione italiana, poi lo approfondiremo appunto nella seconda parte di Focus Economia. Il tasso di disoccupazione intanto giovanile, quell'ambito che ha preoccupato di più nella rilevazione Istat di oggi, 15-24 anni, a novembre è al 30,1%, in aumento dello 0,9% rispetto ad ottobre, in aumento dell'1,8% su base annuale. È il tasso più alto dal gennaio del 2004, dice l'Istat. Complessivamente il tasso di disoccupazione italiana a novembre è stato registrato all'8,6%, in aumento dello 0,1% rispetto ad ottobre, in aumento dello 0,4% su base annuale. Noi adesso ci fermiamo con le notizie in breve, perché direi che, data la giornata sui mercati, possiamo andare subito al primo approfondimento di oggi. Allora, il primo approfondimento di oggi riguarda la tensione che si sta rimanifestando in borsa. Borse sotto pressione, ma direi che è una pressione che riguarda soprattutto Piazza Affari, per fattori domestici, per fattori anche internazionali. Oggi davvero un mix di notizie hanno colpito senza ritegno i titoli bancari italiani. Milano meno 3,68% in questo momento. Sono negative anche le altre piazze europee, ma in misura nettamente inferiore rispetto a Piazza Affari. Londra meno 0,88%, Francoforte meno 0,41%, Parigi meno 1,53%. Cos'è successo? Adesso cercheremo di capirlo. Cercheremo di capire anche perché l'euro continua a scivolare nei confronti delle altre divise internazionali. Già da qualche giorno viene monitorato rigidamente il rapporto con lo yen, è a 98,65 in questo momento, quindi sotto quota 100. Oggi l'euro è scivolato a 1,2784 sul dollaro, siamo ai minimi dal settembre del 2010 ed è ai minimi anche da diverso tempo a questa parte, adesso non mi ricordo da quanto, nei confronti della sterlina, a 0,82. Buonasera a Vittorio Carlini, collega delle Sole 24 Ore. Buonasera a voi. Abbiamo attribuito la debacle, non so come chiamarla diversamente, anche se poi qualche volta gli ascoltatori ci dicono di non essere esagerati nell'utilizzo della terminologia negativa, però meno 16% per Unicredit, e vabbè, qui ci sono anche delle vicende di casa Cordusio, però meno 10% per il Banco Popolare, per la Popolare di Milano, meno 9 per Ubibanca. Erano da settimane che non si vedevano performance di questo tipo, anche forse nelle giornate peggiori dello spread, di nuovo meno 8, meno 9, meno 10 per le banche. Erano prestazioni appunto che non si vedevano. Il mercato, ti chiedo subito un primo giudizio, Vittorio, ha oggi attribuito la colpa di questo forte ribasso al settore bancario italiano, ma anche a Parigi non è che le cose siano andate meglio, alla questione ungherese, però non so quanto per esempio la Francia la questione ungherese interessi. Detto questo, della crisi dei paesi dell'est non si parlava forse per il 2011, molto raramente ne abbiamo parlato, era successo in maniera molto più frequente negli anni precedenti. L'anno scorso, con la crisi del debito sovrano, ci siamo ovviamente necessariamente concentrati sull'Europa, questa crisi sembrava un po' essersi sopita, messa da parte. Oggi improvvisamente si sveglia l'Ungheria. Una scusa secondo te per portare a casa un po' di incasso dei primi due giorni dell'anno, oppure c'è qualcosa di più concreto nelle preoccupazioni? Io credo che la questione sia, per quanto riguarda i titoli bancari italiani, che non dimentichiamocele, hanno un grande peso sul FTSE MIB, ed è per questo che noi stiamo perdendo di più rispetto alle altre piazze europee. Si è legato al discorso della Francia, cioè ai timori della possibilità, se ne parla da tanto tempo, di una perdita della AAA da parte di Parigi. L'asta non è andata benissimo, soprattutto sui titoli decennali, il bid cover, cioè la percentuale di copertura dei titoli decennali francesi non è stato buono, e allora ecco che rientrano i soliti meccanismi che purtroppo conosciamo bene: tensione sui titoli di Stato, i titoli di Stato di cui le banche italiane sono imbottite, si pensa e si teme che ci possa essere una svalutazione ipotetica di questi titoli di Stato in portafoglio, si vendono le banche, anche perché non dimentichiamoci che noi siamo un paese dove i margini stessi delle banche sono visti non in forte crescita. Perché? Perché siamo un'economia che, ahimè, purtroppo le stime danno in recessione, e quindi questa è un po', secondo me, la vera causa quest'oggi. Poi è ovvio che tutte le tematiche che in qualche modo tendono a creare volatilità, a creare problematiche, a creare difficoltà, e quindi anche questo tema di oggi, parliamo sempre comunque dei debiti pubblici di Stati dell'Ungheria, crea nervosismo sui mercati. Assistiamo anche qui di nuovo a un qualcosa che già abbiamo visto, nel momento in cui paesi vicini all'area euro, che hanno problematiche e che possono indicare, come dicevi tu prima, anche dei temi di difficoltà dei paesi dell'est, che sono delle economie in forte crescita, ma che sono sempre delle economie legate comunque alle esportazioni di materie prime, penso alla Russia, verso i paesi più industrializzati. Ecco allora che se ci sono delle problematiche legate all'Occidente e quindi di conseguenza che si possono ripercuotere su questi paesi, ecco allora che di nuovo si hanno i timori, di nuovo c'è volatilità, di nuovo si va sul dollaro, che è la moneta di riserva mondiale, e l'euro in qualche modo dal punto di vista delle monete cala. Non dimentichiamoci che abbiamo visto per tutto il 2011 una correlazione che anche oggi vediamo. Cala l'euro, che vuol dire stare fuori dal rischio, andare su il dollaro, che vuol dire andare a comprare, giusto o sbagliato che sia, perché non è detto che sia una considerazione corretta, asset che si considerano più sicuri, e quindi titoli di Stato americani, quindi pressioni in acquisto del dollaro che sale. Allora, siccome abbiamo parlato della crisi ungherese e abbiamo attribuito anche a questo focolaio che si è di nuovo ridestato, che si è riacceso, parte anche della performance negativa pesantissima di Unicredit di oggi, perché Unicredit insieme a Banca Intesa hanno una discreta esposizione in Ungheria, vorrei capire che cosa sta succedendo in questo paese, perché oggi in maniera di nuovo così allarmante si torna a parlare di crack, di bancarotta di questa economia. Come mai Fiorino è finito ai minimi sull'euro e come mai quest'asta di questa mattina in Ungheria è andata mezza fallita, in realtà il paese appunto non è riuscito a collocare sul mercato tutto l'ammontare che aveva previsto e come mai soprattutto il Parlamento nazionale nei giorni scorsi, con un'azione che in qualche maniera io potrei anche definire un po' suicida, kamikaze, aveva deciso di tentare di far passare questa legge che avrebbe voluto permettere il ritorno sotto l'influenza appunto del governo, addirittura la banca centrale ungherese, in un momento in cui c'è larga necessità di rendere queste istituzioni largamente indipendenti. Claudia Segre, esperta di mercati finanziari internazionali emergenti, in particolar modo segretario generale di Assium Forex, buonasera. Buonasera. Allora, che cosa è successo? Noi dicevamo prima, poi magari sicuramente voi operatori di mercato che focalizzate la vostra attenzione sulle dinamiche internazionali, magari non ritenete che i rischi dell'Est Europa si fossero mai sopiti, ma di sicuro queste economie non avevano riguadagnato la pagina dei giornali nelle ultime settimane e quindi pensavamo che in qualche modo la situazione fosse più sotto controllo, anzi addirittura c'è qualche paese che da quelle parti sta riprendendo a crescere in maniera anche interessante. Ci spiega che cosa sta succedendo in Ungheria nelle ultime giornate, nelle ultime ore, anzi direi. Sì, vi do proprio un aggiornamento dell'ultima ora perché sono arrivate adesso le ultime notizie per i lavori della delegazione ungherese che si incontrerà l'11 gennaio. Commissione Europea e successivamente con l'IMF a Washington. Questa delegazione si aggiungerà, oltre al ministro senza portafoglio Felleggi, anche probabilmente il ministro delle Finanze. Di sicuro quello che sta succedendo è che di fronte a un Fiorino Ungherese che ha perso circa il 17% in tutto il 2011, questo 2012 è all'insegna della debolezza ed è un chiaro segnale contro un governo che ha la stragrande maggioranza dei voti in Parlamento e nel Senato, ma di fatto sta facendo i passi sbagliati. Quindi le ultime notizie sono che sembra che il governo voglia fare un passo indietro su quella legge che lei ha citato, che minava l'indipendenza della banca centrale, punto fondamentale per garantirsi un'entrata definitiva in Eurozona o comunque un accreditamento nell'Unione Europea, al di là del fatto di essere semplicemente nel club, ma soprattutto bisogna dire che entro il primo semestre si dovrebbe arrivare a ottenere la tranche dell'IMF di circa 2 miliardi di dollari secondo una formula di linea stand-by RAI, quindi molto flessibile, che coprirebbe 1,5 miliardi di necessità di nuove emissioni. Quindi non siamo di fronte a un default, ma a un paese, il primo che ha avuto gli aiuti dopo Lehman e successivamente che ha avuto il piano IMF nel 2010, che ha cercato di fare delle prove di dittatura fuori luogo. Quindi ancora una volta la politica sbagliata viene sostanzialmente sanzionata dai mercati, e proprio per la pressione che i mercati continueranno a dare sul fiorino e sull'economia del paese ci aspettiamo anche ulteriori rialzi dei tassi di interesse. Senta, a proposito di rialzi dei tassi di interesse, ma questa è veramente una mera curiosità, oggi ho notato che nel raccontare come fosse andata quest'asta di questa mattina, nello spiegare anche l'andamento dei rendimenti dei titoli piazzati, di quelli già sul mercato, praticamente per i titoli ungheresi il parametro di riferimento per i titoli decennali non è il Bund tedesco ma il Bill inglese. Come mai? Ma allora ci sono un po' di questioni che riguardano proprio l'affezione o meno del cittadino ungherese alla sua divisa. Dati trascorsi storici, come sappiamo il 60% dei mutui dei proprietari di case ungheresi, ed è storia di qualche mese fa, sono in franchi svizzeri ad esempio, e il punto di riferimento che viene preso su mercati o molto stabili da un punto di vista valutario o altrettanto da un punto di vista del mercato dei bond e dei titoli governativi. Quindi questo sta a dimostrare ancora l'esigenza di un mercato ungherese di informarsi anche nei parametri di riferimento a quella che è la realtà dell'Unione Europea, al di là di ciò che non è ancora, evidentemente non hanno ancora adottato l'euro, e soprattutto questa necessità di andare dentro parametri che siano più regolari, più legati all'eurozona, è anche la necessità per avere un via libera definitivo che in questo momento è ben lontano dal punto di vista della Commissione Europea. Quindi un'esigenza per l'Ungheria che il mercato sta facendo scontare con quei due punti di allargamento dei rendimenti sull'asta odierna. Claudia Segre, un'ultima domanda, poi la saluto e completo il mio ragionamento con Vittorio Carlini. Ci spiega come mai c'è stata una reazione anche un po' non negativa, ma un po' in chiaroscuro rispetto alla l'asta francese, appunto, che si è svolta questa mattina. Il mercato francese ha accolto, il mercato internazionale ha accolto in maniera direi molto soddisfacente, perché la domanda è stata doppia rispetto all'offerta, appunto, i titoli che il tesoro transalpino aveva proposto sul mercato, quasi 8 miliardi, però non si è capito bene, appunto, se sia stato un risultato soddisfacente. Mi dà il punto di vista di un operatore, questa è stata la prima asta importante, diciamo, dell'anno, anche se c'era stata ieri quella tedesca, ma in genere l'esito di quelle tedesche sono abbastanza scontati, appunto, e anche quella portoghese ieri. Ma sì, diciamo che queste aste core, cioè dei paesi dell'asse franco-tedesco, erano attese con grande attenzione. A mio avviso questo segnale dell'asta francese è molto positivo in un momento in cui, come sappiamo, la Francia rischiava in apertura del 2012 un giudizio negativo ulteriore, quindi ancora una tripla A a rischio. Questo segnale di grande fiducia direi che rinforza l'asse franco-tedesco con la barra dritta che è verso il rigore e l'impegno degli altri paesi a seguire la linea dettata dalla locomotiva tedesca. Quindi direi un segnale che noi prendiamo positivamente e che dimostra come le questioni extra euro, come la questione ungherese, per adesso vengono viste in maniera isolata e non ancora a livello di contagio del cuore dell'Europa. Grazie a Claudia Segre, buona serata. Arrivederci, buonasera. A dimostrazione del nervosismo che c'è sia sul mercato ma un po' in generale, non ti dico, caro Vittorio, gli insulti che stanno arrivando oggi a Focus Economia, come se un po' questa giornata nera di borsa fosse colpa, naturalmente, come al solito, dei giornalisti e di come la raccontano. In molti mi attribuiscono di aver parlato con toni eccessivamente entusiastici, cosa che non ho mai fatto, perché è sempre questo il mio tono di voce, del rally delle prime due giornate dell'anno. Però adesso, a parte il folklore, un po' dei commenti degli ascoltatori che lasciano il tempo che trovano, mi chiedo se quello che è successo effettivamente nei primi due giorni dell'anno poteva essere un motivo incoraggiante, appunto, di ritorno sull'equity, e se quello che è successo oggi invece contribuirà a far ripartire di nuovo una corsa verso il basso per gli indici internazionali. D'altronde, voglio dire, negli Stati Uniti le cose non vanno male, e abbiamo sempre guardato agli Stati Uniti come un faro illuminante per un po' per tutti. È chiaro che adesso la condizione del debito sovrano europeo muove le acque in maniera determinante, ma degli Stati Uniti proprio ci dobbiamo disinteressare. Poi faremo un piccolo focus anche sui dati economici che sono stati diffusi oggi. Ma noi siamo giornalisti, ti rispondo, e quindi riportiamo le indicazioni. È curioso, ed è proprio interessante questo, e secondo me questo è l'indizio proprio del momento in cui viviamo, quella che io chiamo l'età dell'incertezza delle borse dei listini. Ascoltando qualche operatore in giornata prima di venire qui in trasmissione da voi, io ho sentito dei commenti diversi sull'andamento dell'asta francese, altri invece che un po' sono quelli che ho un po' riportato, cioè sì, andamento positivo, però si aspettavano una copertura maggiore. L'ottima analisi fatta da chi mi ha preceduto diceva invece che il segnale era molto positivo. Secondo me questo è proprio un indicatore di quello che noi stiamo vivendo, c'è una grande incertezza. E nell'ambito delle incertezze, queste situazioni, a seconda che si veda il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, possono veramente spostare l'ago, della bilancia da una parte all'altra. Tu mi chiedi un rally. Io non parlerei mai di rally in questo periodo, parlerei di rimbalzi eventualmente. No, ho Non si. solamente preso un termine che mi hanno suggerito gli ascoltatori, che io pure non Certo. credo di aver mai Ma detto assolutamente, comunque. sono convinto. Non si può parlare comunque di rally in questo momento, si può parlare soltanto di borse che hanno perso molto nel 2011, con eccezione degli Stati Uniti, soprattutto del vecchio Dow Jones, che si è preso una bella rivincita rispetto a tanti altri listini, ma comunque si tratta di borse che sono e rimangono assolutamente volatili e difficili da gestire. L'euro, mi chiedevi prima, l'euro è in una fase di debolezza in questo momento, di fragilità. Tutti gli operatori lo vedono in discesa. Anche qui però bisogna, secondo me, per capire anche questo discorso del vedere come il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, uno si chiede, e lo possiamo chiedere anche all'ascoltatore che ci stanno sentendo, ma con tutti i problemi che in questo momento ha Eurolandia, con i problemi dei debiti sovrani, con i problemi legati a capire se si farà o non si farà questa famosa roadmap accelerata sull'unione fiscale, con tutte le tematiche legate a una crescita macchia di leopardo, la Germania va abbastanza bene, però noi con queste manovre di austerity, non soltanto l'Italia, ma la Grecia l'abbiamo già visto, il Portogallo e via dicendo, andiamo in recessione. Ecco, con tutti questi problemi noi comunque abbiamo un euro che per esempio verso il dollaro sì, è sceso, però comunque rimane sempre a 1,28, più o meno quello che è il livello definito come parità di acquisto, cioè vale a dire che io posso comprare gli stessi beni negli Stati Uniti, per esempio, rispetto agli stessi beni che posso comprare Una qua, sorta di è valore di attorno equilibrio, 1,18, 1,20. 1,20. Allora io, se fossi una persona che viene da Marte e in questo momento dice ma 1,28 è alto, allora qui qual è una delle motivazioni, delle tante motivazioni che si prendono in considerazione. Beh, l'euro in questo momento, per usare una battuta, non brilla di luce propria, brilla della luce della Fed che tiene schiacciato il dollaro per sostenere l'export verso l'Unione Europea. Uno si chiede, ma com'è possibile che uno yen che ha dietro un'economia di una popolazione anziana, con un debito PIL che è circa il Tutto 220%, comprato da con loro. una crescita che è bassa, che è Da de problematica, decennio. continui a avere questa forza rispetto al dollaro. Anche qui, forti debolezze. Poi ci sono le motivazioni, due debolezze, scusate, che si contrappongono. Forse prevale in questo momento la debolezza dell'euro, però anche qui magari la motivazione tecnica può essere: io in questo momento, se voglio entrare sulle monete asiatiche, non posso comprare renminbi perché è difficile. Allora, per espormi in qualche modo a quell'area, Vado mi sul Giappone, espongo sul Giappone perché non vado a comprarmi con la il quale gli baht investitori thailandese, domestici hanno un po' eccetera. più familiarità da questa Certo, parte, certo. Questa certo. può essere una motivazione. Non credo sia la motivazione sufficiente quella, per esempio, della bilancia commerciale positiva del Giappone. Un'ultima battuta. Sì, perché devo andare in pausa e sono già fuori tempo massimo. Velocissimo. Secondo me bisogna tenere conto di una cosa: in questo momento la valuta dovrebbe, cioè in generale, il fondamentale di una valuta dovrebbe essere la bilancia commerciale, il PIL, la capacità produttiva di un paese. Questa dovrebbe essere la forza che tiene su o tiene giù una moneta, soprattutto in senso lato. Adesso invece conta l'appetibilità dei titoli di debito pubblico sul mercato internazionale. E allora è ovvio che se è questo uno degli elementi che diventa fondamentale, al di là della politica monetaria, questo è ovvio. È chiaro che noi abbiamo una situazione di anche qui volatilità, scendiamo, eccetera. L'euro in questo momento sta scendendo perché paga i timori sulle appetibilità o meno dei titoli di Stato dei vari paesi europei sui mercati finanziari. E per questo che scende. Ma non scende perché, per esempio, una, io non credo che chi ha comprato dollari e venduto euro è andato a vedersi, non so, la bilancia commerciale tedesca, l'IFO tedesco, non credo. Diciamo che allora possiamo dare ragione ad un altro ascoltatore che invece parla chiaramente di nuovo di un mercato che in questo momento, comunque in certi frangenti, soprattutto quelli estremi in giornate come oggi, è in mano a degli speculatori che... Ma non è una questione di speculazione, non sono d'accordo. È che il mercato è diventato così. In questo momento il mercato non è che ci sono i buoni e i cattivi. Il mercato in questo momento tiene conto di queste variabili. La domanda è corretto e sensato tenere conto di queste variabili? Secondo la vecchia scuola, in cui un po' appartengo, dico di no, sarebbe meglio che si ritornasse a delle valutazioni sui fondamentali, ma il mercato in questo momento non tiene conto di questi elementi. E infatti questo è il punto che toccavo prima quando ti ho fatto la domanda sugli Stati Uniti. Ti devo lasciare, Vittorio, perché abbiamo altri temi da affrontare. Focus Economia questa settimana dura mezz'ora in meno. Comunque grazie per la tua analisi, buona serata, buon lavoro. Grazie naturalmente. Ci fermiamo, abbiamo il primo break, poi tra l'altro il secondo lo devo fare a brevissimo. Rudy, scusami, a tra poco. Quaranta, abbiamo allungato un po' la prima parte di Focus Economia nel giro di 5 minuti, dobbiamo andare a fare subito la nuova pausa, però abbiamo tutto il tempo per poter dire che questa seduta di borsa a Milano si chiude con un ribasso del 3,65%, per Parigi abbiamo un calo di 1,5%, per Francoforte che oggi ha completamente limitato i danni, contenuto i danni, meno 0,25%, Londra meno 0,7%, le cose a Wall Street come vanno, il Dow Jones per lo 0,4%, Nasdaq positivo per lo 0,14%, Standard & Poor's meno 0,18%, quindi acque tranquille negli Stati Uniti, mentre qua in Europa oggi proprio i riflettori si sono completamente concentrati su Piazza Affari. Allora vi raccontiamo quello che a Piazza Affari è successo oggi. Con Paolo Paronetto, collega di Radio Cori, Le Sole 24 Ore. Paolo, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, guarda, ti preannuncio già che oggi ho ascoltatori completamente nervosi. Sono proprio, come dire, quasi indemoniati nell'insultare la povera conduttrice di questo programma che si sta limitando a raccontare quello che succede. E a prescindere dal fatto che io possa essere più o meno padrona degli argomenti, le cifre sono queste. Milano ha perso 3,5 punti. Io non lo so, vogliamo ancora di nuovo raccontare la giornata dei titoli bancari. Certo che Unicredit con l'Ungheria oggi, Paolo, ha fatto bingo proprio di problemi, non so se se ne possano trovare altri nei prossimi giorni che si possano così accanire sul titolo, meno 17,27% sul finale. Sì, esattamente, il tema delle banche è sicuramente quello di giornata, soprattutto in Italia. Vediamo tre titoli: Unicredit, BPM e Banco Popolare hanno fatto registrare perdite a due cifre, quindi superiore ai 10 punti percentuali. Unicredit sicuramente è stata la maglia nera per la seconda seduta consecutiva, in due giorni ha perso il 29% e quindi ha bruciato oltre 3,5 miliardi della propria capitalizzazione. Sicuramente ha pesato le difficoltà in Ungheria, ha pesato l'aumento dello spread che è tornato oltre i 520 punti base, lo spread tra BTP e Bund naturalmente, ma continuano a pesare i termini dell'aumento di capitale annunciati ieri prima dell'apertura dei mercati. I titoli continuano a risentire del forte sconto con cui saranno emesse e le nuove azioni, mentre in generale gli analisti segnalano che proprio il momento di mercato che rende difficoltoso e non conveniente per gli azionisti un aumento di capitale, perché il costo del capitale è nettamente superiore al suo rendimento, quindi una ricapitalizzazione come quella di Unicredit, che vale per circa il 60% del valore pre-aumento, e comporta quindi questa differenza molto negativa e svantaggiosa per gli azionisti. Paolo, un altro caso interessante, Andrei, poi non so se gli altri titoli bancari che hanno perso il 10%, l'8%, il 9%, quindi Popolare di Milano, Banco Popolare, Ubibanca, Monte dei Paschi abbiano delle storie individuali da raccontare, o se ci sia stato esclusivamente un effetto trascinamento Unicredit e questione ungherese. Sì, beh, c'è inoltre i timori in Germania su Deutsche Bank, si inizia a parlare di un possibile aumento di capitale per Deutsche Bank, e quindi un altro elemento che per l'intero settore bancario ha pesato. Oggi il comparto è stato il peggiore a livello proprio di settore in Europa, ha perso oltre 3 punti percentuali con cali generalizzati su tutti i listini, ad esempio a Parigi attorno al 5%, i principali titoli, Deutsche Bank quasi il 7%, ma comunque i titoli milanesi sono quelli peggiori, e qui è proprio stato il trascinamento di Unicredit che li ha spinti tutti al ribasso. Allora, ce la faccio a raccontare un altro caso di borsa? Fabio, sì, direi di raccontare il più bello oggi, il più interessante in termini positivi, Fiat, più 3,57%. Allora, per Fiat sono arrivate queste notizie oltreoceano che non sono state una sorpresa, perché in realtà abbiamo fatto un altro passo nel rispetto di quel master agreement che era stato firmato con Chrysler appunto anni addietro, e oggi Fiat, allora, quanto è salita la casa automobilistica americana e come mai c'è stata questa reazione positiva del titolo, visto che la notizia era sicuramente ben digerita in tempi precedenti appunto, certo, dal mercato? Fiat appunto oggi è stata il titolo di gran lunga il migliore, ha guadagnato il 3,57% a quasi 3,9 euro, in mattinata appunto ha annunciato di essere salita al 58,5% del capitale di Chrysler, quindi ha comprato un'altra quota del 5%, notizia attesa come ricordavi tu, ma proprio il rafforzamento della presa su Chrysler è stata accompagnata ieri sera dall'annuncio dei dati sulle vendite negli Stati Uniti del mercato statunitense dell'auto in dicembre e per l'intero 2011, dati che proprio per Chrysler sono stati molto positivi e gli analisti li giudicano molto forti, e inoltre tutte le case automobilistiche hanno annunciato aspettative positive per il 2012, quindi insomma proprio le vendite di Chrysler si stanno rivelando una boccata d'ossigeno per Fiat, che invece sta soffrendo in generale sui mercati europei. Oggi sono arrivati i dati sulla Polonia, anch'essi negativi, peggiori del mercato, ma è proprio il fronte statunitense che trascina al rialzo i titoli Fiat. Allora, tra l'altro, questo un po' ci mi permette di ritornare per un secondo su una obiezione sollevata da un ascoltatore che dice: ma io non capisco come mai viene in mente di parlare di ripresa economica americana, non è che l'abbiamo detta in questi termini, non c'è niente da brindare ancora là. Qualche piccolo segnale c'è, perché i dati sull'occupazione sono positivi, ve li ho detti anche prima, e non stiamo andando nella direzione negli Stati Uniti in cui stanno andando invece economie appunto europee. Complessivamente adesso non ricordo il dato dell'occupazione e della disoccupazione in Europa, ma comunque qualche micro segnale negli Stati Uniti arriva. Forse anche queste indicazioni che arrivano al settore automobilistico sono rappresentative di questo nuovo piccolo segnale che dagli USA appunto si vede. Ci fermiamo per un attimo, Paolo, poi andiamo su un altro paio di casi di borsa, e c'è anche un ascoltatore che chiede: non capisco perché non nominate mai la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, ma ne abbiamo parlato tantissimo, figuriamoci, se n'è andato anche un manager negli ultimi giorni per andare ad approdare in un'altra grande banca, che pure oggi non se l'è passata molto bene, Fabrizio Viola, ma non sono questi appunto i temi che hanno movimentato la Popolare dell'Emilia Romagna di recente. Se facciamo in tempo ne parleremo tra poco. Allora, 17.47, ancora un paio di battute su un paio di casi di borsa con Paolo Paronetto di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Parlavamo prima della seduta positiva che ha riguardato oggi a Milano solo due titoli, Fiat, ne abbiamo spiegato le ragioni. Pirelli, più 0,52%, invece su Pirelli, no, vedo che comunque anche i dati sul mercato americano dell'auto hanno fatto bene a questo titolo. Sicuramente proprio in generale il settore auto, e quindi anche quello dei componenti per auto, che oggi è stato di gran lunga il migliore in tutta Europa, è salito il sottoindice di comparto dell'1,23%, quindi anche titoli come Pirelli ne hanno approfittato, è salita dello 0,5%, quindi facendo comunque decisamente meglio dell'indice, che ha registrato pesanti perdite. Il motivo è proprio questo, di un movimento dell'intero settore. Ad esempio anche a Parigi Michelin, pur perdendo, ha limitato i danni allo 0,5%, quindi anche in questo caso si è trattato di una prestazione migliore di quella del listino. Senti, spostandoci sul listino minore, vedo che dopo la corsa, forse per certi motivi anche non tanto ragionata, dei titoli fondiari assai dell'azionista di riferimento della famiglia Ligresti, Premafin Finanziaria, insomma dopo il volo degli ultimi giorni, oggi c'è stata una sonorissima battuta d'arresto per tutta la galassia. Sì, esattamente, i titoli erano proprio andati in rally, spinti in gran parte dalla speculazione. Oggi Fonsai ha perso il 14,8%, e ancora peggio ha fatto Premafin, che ha perso oltre il 20%, quasi il 21%. Proprio i titoli si erano mossi molto in attesa di una possibile soluzione del riassetto, si è parlato di ingresso di investitori oppure addirittura di operazioni straordinarie, in particolare della fusione con Unipol. Oggi le ultime indiscrezioni sono un po' più incerte su quale sarà il possibile sbocco della partita. Ieri ieri sera Fonsai ha sottolineato che al momento non sono arrivati contatti né manifestazioni di interesse per possibili fusioni, quindi il mercato ha deciso di prendere una pausa e anche di realizzare gran parte dei guadagni fatti segnare negli ultimi giorni. Per accontentare ancora qualche ascoltatore, Banca Intesa oggi meno 7,33%, ma le motivazioni, come abbiamo spiegato, appunto insieme ad Unicredit, sono le due banche più italiane maggiormente presenti in Ungheria, no? Quindi oggi hanno risentito, certo, di questa fiammata di crisi che è ritornata a preoccupare appunto questa importante economia dell'est. Intesa e Unicredit sono rispettivamente la quinta e la settima banca del paese addirittura, per cui non stiamo parlando di, come dire, delle microscopiche casse di risparmi ungheresi, vero Paolo? Mi pare che sono sicuramente i titoli più esposti in Ungheria, insieme al generale allargamento dello spread, quelli sono i due macro temi che hanno pesato su entrambi. Ah, tra l'altro, sì, a proposito di spread, che per la verità oggi, pur essendosi riallargato di nuovo, non l'ho dato, è ritornato sui 520 punti base e il rendimento del titolo decennale è ritornato sopra il 7%. Ormai ci siamo affezionati a questi livelli, noi li vogliamo lasciare. Paolo, grazie per essere stato con noi, ti auguro una buona serata. Grazie a voi, buona serata. Eccoci qua. E allora adesso io vorrei davvero trovare qualche tema divertente del quale parlare con voi, e invece dobbiamo ritornare a parlare un po' della situazione dell'occupazione nel nostro paese, che di divertente ha ben poco, soprattutto per chi non ce l'ha un lavoro in questo momento. Il tasso di disoccupazione in Italia continua a crescere, ma soprattutto sta mostrando livelli di preoccupazione il tasso di disoccupazione giovanile. Questo è il nostro ultimo approfondimento di oggi. Tra l'altro, alcuni analisti hanno detto che anche questo dato oggi ha contribuito a far sì che molti investitori si allontanassero da Piazza Affari. Quindi davvero oggi, come abbiamo detto all'inizio, c'è stato un concentrato di notizie cattive che hanno riportato tutti quanti a riallontanarsi dal mercato azionario italiano. E però insomma andiamo un po' a vedere come stanno le cose. Il tasso di disoccupazione, vi ridò un po' le cifre, poi le commenteremo con un autorevolissimo esperto che anzi saluto subito, Walter Passerini, giornalista, esperto consulente di tematica sull'occupazione, è il responsabile dell'inserto Tutto Lavoro della Stampa, ma soprattutto è un amico di Radio 24, perché ha condotto molte trasmissioni dai nostri microfoni su queste tematiche molto importanti, molto delicate. È stato a lungo anche la firma sul Sole 24 Ore su questi argomenti. Walter, buonasera, un piacere risentirti, buon anno naturalmente. Altrettanto, grazie Deborah, buon anno a tutti. Allora, il tasso di disoccupazione nel nostro paese in novembre si è attestato all'8,6%. Abbiamo avuto un aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente, ad ottobre più 0,4% su base annua. Diciamo che livello alto, ma non ci sorprende, perché sappiamo bene quello che è successo alle imprese nel nostro paese, quante piccole imprese stanno chiudendo, quanta difficoltà c'è a ricollocarsi, soprattutto per una fascia medio-alta di lavoratori che quando hanno raggiunto i 50 anni di età fanno fatica a trovare delle posizioni adeguate nelle imprese. Ma in realtà il problema non riguarda tanto questa fascia, a giudicare dalle statistiche, quanto il tasso di disoccupazione giovanile. Il tasso di disoccupazione, cioè di quella fascia d'età che va dai 15 ai 24 anni, che a novembre è salito al 30,1%. Questo peraltro era un monitor che aveva acceso da tempo l'ex governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che in tutte le sue relazioni ufficiali degli ultimi periodi del suo mandato non faceva altro appunto che ricordarlo. Credo che comunque sia un problema un po' caro a tutti e che debba ritornare in maniera molto dirompente, un aggettivo che non piace agli ascoltatori, adesso non me ne è venuto un altro, nell'agenda di questo governo, che comunque sta già lavorando sulla riforma del mercato del lavoro. Detto questo, Walter, che cosa è successo a novembre, come si sta chiudendo il 2011, visto che quella di cui parliamo oggi è la statistica appunto di novembre, non di dicembre, ma non credo che poi il mese successivo vada molto meglio. Insomma, ci puoi dare la tua prima chiave di lettura rispetto alla cifra fornita oggi dall'Istat? Sì, la fibrillazione congiunturale la dobbiamo un pochettino lasciare certamente come segnale, ma non crederci fino in fondo. Mi spiego meglio, i dati trimestrali sono un po' migliori del dato novembre su ottobre. In ogni caso il flusso indica brutto tempo, e questo lo sapevamo, nel senso che stanno venendo al pettine quelli che chiamavamo i problemi della frattura intergenerazionale. Quindi oggi per esempio c'è una tenuta dell'occupazione oltre i 55 anni per i noti problemi legati al sistema previdenziale, e su base annua c'è una perdita di 160 60.000 posti di under 34, quindi insomma davvero si sta verificando e sta comparendo anche in termini aritmetici questa frattura generazionale del nostro paese. Tra l'altro l'occupazione è scesa sotto i 23 milioni, questo è un altro dato abbastanza pericoloso. Abbiamo perso dal 2008 700.000 posti di lavoro e circa 300.000 altri lavoratori sono a rischio, perché sono in stato di crisi piuttosto elevato, le casse integrazioni straordinarie non scendono come quella ordinaria. Ecco, quindi diciamo la situazione dell'occupazione sicuramente è molto sofferente in questo momento. Dicembre ci daranno i dati, ci daranno ulteriori conferme di questo 30,1 per gli under 24 di disoccupazione. Credo che a naso, perché qui non ci sono possibilità di previsioni scientifiche e precisissime, a naso dobbiamo soffrire almeno un semestre. Io oggi sentivo da te i dati sull'occupazione americana. Dagli Stati Uniti, francamente, ci sono alcuni primi segnali di ripresa che Obama ha saputo cogliere al volo. In Europa la Germania sta riprendendo, addirittura ci sono moltissime ricerche di personale in corso, quindi si tratta di legare l'occupazione alla crescita. Se il nostro paese riuscirà in questo semestre a darsi una dirittura delle linee guida sulla crescita, beh, allora a questo punto credo che con agosto e settembre noi possiamo tirare qualche sospiro di sollievo in più sul fronte occupazionale. Beh, se dovessimo aspettare solo un semestre non sarebbe neanche davvero tanto grave, Walter. Tra l'altro, allora, il dato che abbiamo dato oggi, quello sulla disoccupazione giovanile, è il dato più alto dal gennaio del 2004. Che cosa è successo poi in avanti? C'è stato un ridimensionamento di questa cifra percentuale? Grazie a che cosa? Grazie a quali stimoli? Grazie a quali settori che avevano movimentato un po' di più l'occupazione giovanile, Walter? Sì, ma la movimentazione è avvenuta al margine, no? Perché le politiche del lavoro con il 2003, con la legge Biagi, hanno favorito quello che oggi chiamiamo, che Monti chiama, il dualismo del mercato del lavoro. Quindi attraverso alcuni strumenti tecnici, che sono i contratti a termine nelle diverse forme, abbiamo, come dire, raschiato il fondo del barile, abbiamo trasformato occupazione nera in occupazione alla luce del sole, con contratti però a scadenza. Per spiegare anche che cos'è quel dualismo che intende Monti, è il lavoro ipertutelato di chi ha il tempo indeterminato. Debora, iper di oggi, di ipertutelato. No, nel senso per definire la totale contrapposizione rispetto a chi ormai. Ecco, esattamente, esatto. Perfetto. Dal 2004 effettivamente c'è stato, fino al 2006 e anche 2007, c'è stato un incremento dell'occupazione al margine, vuol dire cioè un'occupazione tutto sommato fluttuante, no? Bisognosa di consolidamenti anche in termini di crescita, di sviluppo, di nuove politiche di crescita e così via, ciò che non è avvenuto. Allora che cosa è successo? Che tutto questo polmone di riserva di occupazione al margine si è sgonfiato, quindi con l'arrivo del 2008-2009 della crisi, beh, c'è stato il tonfo. E chi è che ha perso i posti di lavoro? Prima di tutto l'hanno perso i giovani e i giovani precari, coloro che avevano dei contratti appunto di somministrazione o a termine, e questo è stato un po' il problema. Quindi siamo ritornati addirittura sotto i 23 milioni di occupati, che è un limite appunto che da anni non conoscevamo. Quindi se la riforma Biagi ha dato fuoco alle polveri, ha fatto aumentare l'occupazione per quanto precaria fosse, oggi abbiamo bisogno di ricreare degli strumenti e delle politiche di occupazione, tra cui il famoso ormai contratto prevalente, di cui c'è davvero grande bisogno. Ma c'è bisogno soprattutto di crescita, Deborah, perché altrimenti, certo, altrimenti rifacciamo un altro tipo di volano, no? Che magari può durare un anno, può durare un anno e mezzo, ma se la crescita non regge l'occupazione, noi continueremo con il nostro metronomo a senza lavoro. Guarda, Monti deve andare con la sua ricetta per la crescita a Bruxelles entro poche settimane, per cui le carte devono essere svelate molto presto. Walter Passerini, grazie per essere stato con noi, buona serata, buon lavoro. Non siamo riusciti a aprire la parentesi sulle donne, ce ne dispiace, lo faremo al più presto. Grazie a Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, Fabio Cantadori in assistenza tecnica. Per tutti voi, purtroppo la Befana torna. Radio 24, la passione si sente.